Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, seconda puntata di questa settimana che Smart City dedica al tema del cibo e della nutrizione. Parliamo di sicurezza alimentare, che è un tema caro a tutti, o quasi, insomma, e in particolare parliamo di tracciabilità e rintracciabilità, che ne sono i due pilastri. Tracciabilità significa sapere esattamente cosa contiene un alimento, quindi quali ingredienti e in che quantità. Rintracciabilità significa invece poter ricostruire la vita dell'alimento prima che sia finito sulle nostre tavole, per esempio dove sono state coltivate le materie prime, dove è stato trasformato e come è stato conservato. Oggi la tecnologia ha molto da offrire per migliorare sia la tracciabilità che la rintracciabilità degli alimenti. E il CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, è in prima linea nello sviluppo di nuove soluzioni. Chiara Albicocco ne ha parlato con Domenico Pignone, che è dirigente di ricerca del CNR, in forza in particolare all'Istituto di Genetica Vegetale. Sentiamo. Le tecnologie sono fondamentalmente basate su due set tecnologici diversi. La tracciabilità è basata soprattutto sull'utilizzo delle cosiddette tecnologie omiche. Ci spieghi. L'omica, la proteomica, la metabolomica, cioè tutte quelle tecnologie che in qualche maniera permettono di analizzare in dettaglio un determinato prodotto alimentare. Mentre la rintracciabilità fa soprattutto utilizzo delle tecnologie informatiche, della cosiddetta ICT. E quindi quelle tecnologie ci permettono di, in qualche maniera, raccogliere la storia di un prodotto. Ecco, e a questo proposito magari dividiamo i due settori forse per comodità. Quando parliamo di tracciabilità abbiamo, come lei diceva, a disposizione diverse tecnologie che possono essere le analisi ad esempio molecolari, le analisi genetiche, i nasi e le lingue elettroniche. Lei ha citato alcuni degli aspetti, cioè per esempio per quanto riguarda la tracciabilità sicuramente gli aspetti di genomica, quella che viene chiamato il fingerprinting molecolare, cioè l'impronta praticamente l'impronta molecolare di una specie, che può essere fatta con piccoli frammenti del DNA presente nel cibo, o per esempio alcune tecnologie che sono tipicamente di analisi chimica. Faccio un esempio banale, ci stanno larghi strati della popolazione che per motivi religiosi non mangiano prodotti che contengono maiale o derivati del maiale. Quindi è importante saperlo. Ci sono sia approcci genetici, genomici per individuare questi prodotti, ma anche approcci per esempio basati sulla biochimica, perché il grasso è molto povero di DNA, quindi il grasso di maiale che entra in molte preparazioni alimentari non sarebbe identificabile con le tecnologie genomiche, ma è più facilmente rintracciabile con altre tecnologie che sono più basate sulla biochimica. In più c'è tutta questa nuova branca che si sta sviluppando, che è quella appunto dell'utilizzo dei sistemi elettronici, come può essere, lei ha citato il naso e la lingua elettronica, una serie di sensori che reagiscono, che hanno una specifica reazione, e questa reazione permette di avere un'idea di quella che è la composizione di un prodotto in maniera molto rapida, senza passare attraverso le classiche analisi chimiche. E invece veniamo agli aspetti che diceva, un po' più legati all'ICT, quindi ad esempio un sistema di codice a radiofrequenza, il cosiddetto RFID, per invece gestire la rintracciabilità. Se ci spiega anche questo aspetto. L'RFID è un piccolo sensore che quando viene eccitato da un segnale radio risponde dando una serie di informazioni che sono state inserite all'interno di questo sensore. Per esempio, faccio un esempio banale, questo sensore potrebbe essere utilizzato per dare conto della catena del freddo nel trasporto di un determinato prodotto. Certo, magari da dove arriva un certo surgelato, un certo tipo di pesce, è stato mantenuto durante tutto il percorso che ha fatto dal luogo di pesca fino al bancone del supermercato dove lo compriamo. Ecco, e per far capire che tipo di strumento è, potremmo identificarlo un po' come un chip del bancomat o dei badge che abbiamo ad esempio per entrare nei tornelli dei mezzi pubblici, una cosa così. Assolutamente lo stesso tipo di tecnologia. Ecco, è diverso un po' dal codice a barre che siamo abituati invece a vedere al supermercato. Codice a barre, diciamo, c'è un altro tipo di codice a barre, cosiddetto QR code, cioè sì, quello fatto di quadratini, che viene per esempio utilizzato per fare pubblicità un prodotto. Allora il QR code per esempio permette di codificare fino a 400 caratteri di informazione oppure di rimandare a un sito web, quindi con l'uso di un semplice smartphone ci permettono di avere una quantità di informazioni che difficilmente potrebbero essere contenute in un piccolo collarino, nell'etichetta, in un piccolo deviant, o in un'etichetta. Grazie a Domenico Pignone e Chiara Albicocco, appuntamento a domani, buona serata.